Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Nel 2006 abbiamo fatto domanda di adozione nazionale e internazionale. Il percorso è stato difficilissimo con gli operatori. La legge stabilisce 4 mesi per i colloqui, sono durati 8 mesi, qualche problema di incomprensione con gli operatori. Io sono diventato papà adottivo da un paio d'anni di un bimbo proveniente dal Burkina Faso. Ho impiegato 5 anni per diventare papà adottivo. Io ho adottato nel 2006 un bimbo asiatico cambogiano. Questo referente tratta la cosa a livello commerciale, cioè per quello che può essere di più il suo interesse immediato. C'è molto assenteismo, per cui spesso la coppia deve fare il fai da te poi su un paese, nel paese straniero. Ne abbiamo parlato solo qualche puntata fa, sono state tante le richieste di tornare sull'argomento, riprendiamo quindi oggi a parlare di adozioni internazionali. La puntata precedente cogliemmo che c'erano alcuni punti che non erano stati ben chiariti, non capivamo bene esattamente se ci fossero delle responsabilità, chi fossero ad attribuire queste responsabilità su alcune, diciamo, irregolarità o zone oscure nel momento della mediazione, soprattutto quando la famiglia va nel territorio d'origine della persona da adottare. Entrano in gioco in certi paesi, in certe occasioni, in certe circostanze, degli intermediari che non sembrano operare finalizzati al benessere dell'adottato o alla felice conclusione dell'adozione, ma quanto al suo personale e remunerativo affare. Vedremo oggi quanto su questo possiamo puntualizzare. Intanto, tutte le persone che avessero avuto un'esperienza di adozione internazionale, avessero elementi da aggiungere a quanto abbiamo già detto, quanto diremo, o volessero comunque parlare della loro esperienza, possono chiamare sin da adesso all'800 24 00 24. Loredana, buongiorno. Buongiorno. Loredana è una mamma adottiva di 2 fratelli che oggi ormai sono già grandicelli e ci racconta anche lei la sua storia. La prendiamo, sì. Tra tante persone hanno telefonato l'altra settimana proprio per iniziare a introdurre l'argomento. Innanzitutto racconti il suo iter, così ricordiamo a chi ascolta cosa deve fare una famiglia per un'adozione internazionale. Allora, premetto che io ho iniziato un percorso adottivo da ultra quarantenne, quindi diciamo con così uno stato d'animo rispetto alla maternità di un certo tipo, quindi insomma con una maturità e con una consapevolezza che avevo acquisito. Il percorso adottivo ha avuto 2 difficoltà con le assistenti sociali. E per essere sintetica dirò che il disagio si è concretizzato quando si parlava dell'elaborazione del lutto. Ecco, questa cosa di quale tipo di lutto? Del lutto determinato dal fatto che io non avessi fatto figli biologici. Sì, però non era morto nessuno. Esattamente, quello che io risposi, perché gli assistenti sociali si aspettavano che uscisse da me questo dolore per non aver saputo fare figli, io in realtà, non avendo questo tipo di disagio, non facevo uscire proprio niente. Perché diciamo la famiglia che vuole fare un'adozione internazionale deve passare attraverso, diciamo, un esame, chiamiamolo così, una dimostrazione che ha tutte le qualità, le attitudini e le caratteristiche per prendersi questa responsabilità. E con chi si fa questa prova? Con assistenti sociali. Ho sentito, e anche per me è capitata questa esperienza di una durata di 8 mesi di colloqui, tant'è che... Con quale frequenza? 8 mesi con quale frequenza vi vedevate? Ma direi ogni 15 giorni mediamente, ogni 15 giorni, sempre in orari, come avevo indicato nell'email, abbastanza strani, nel senso che poi tipo? Il fatto di chiedere... Strani in che senso? Strani nel senso che poi insomma io credo che molte coppie lavorino e quindi magari la richiesta di fare almeno qualche volta un colloquio alle 8 della mattina, 8 e mezza, piuttosto che all'ora di pranzo. Ecco, questo non, nel mio caso, dopo credo una dozzina di colloqui non è mai stato compreso questa esigenza. E a che ora vi davano gli appuntamenti? Ah, sempre a metà mattina. E beh, perché lavora anche è in orario di lavoro dell'assistente sociale. Più che altro la risposta è stata sì, ma se il bambino dovesse stare male, lei come mamma cosa farebbe? Starebbe al lavoro o si presenterebbe comunque a prendere il bambino a scuola? Ma questo è il problema di qualsiasi genitore biologico, naturale, adottivo. Esattamente. Però adesso non vogliamo, mi di atto Paolo Redana, che comunque è necessaria una verifica sull'attitudine, non possono essere dati a scatola chiusa o al buio dei bambini, questo va bene, però lei nota comunque questo colloquio non è stato, diciamo, questo periodo le ha lasciato qualche perplessità, questo è il senso. Mi ha lasciato molte perplessità anche poi, perché poi conoscendo genitori adottivi abbiamo capito che questi percorsi, che in alcune aree dell'Italia sono, e per alcune coppie sono lunghissimi, in altre zone invece gli assistenti sociali sono molto più disponibili nel terminare brevemente. Sì, ma qual è il problema, Loredana? Che vogliamo capire, a parte esca un attimo dalla sua situazione individuale. Sono affidati al caso, non c'è un protocollo unico uguale per tutti. Secondo me il problema è che non esiste una uniformità. Quindi si affida all'estro della persona che fa il colloquio. Esattamente, alla maggiore o minore disponibilità degli assistenti sociali, ecco. E quindi non esiste un protocollo per cui, insomma, la disponibilità ad una relazione positiva che consente poi di arrivare ad un decreto che viene poi dato dal tribunale. Quella è passata idonea, voi siete passati idonei, è andata bene. Noi siamo passati idonei, devo dire, anche grazie a dei giudici del Tribunale di Minori di Milano, veramente eccezionali, veramente, veramente capaci, perché diciamo, ho visto poi questa capacità nella fase successiva, perché e qui diciamo introduco la difficoltà che ho trovato nel momento in cui poi ci siamo rivolti ad un ente, quindi a un ente attraverso il quale poi abbiamo adottato all'estero. Dove avete adottato? Dove avete adottato? Da quale paese? Noi abbiamo adottato in Vietnam. Ho avuto l'abbinamento con un bambino di 6 anni. Ho accettato, io e mio marito abbiamo accettato l'abbinamento. Dopo l'abbinamento, dopo una settimana circa, abbiamo ricevuto la sua fotografia. E dopo un anno io ancora non ero partita. A un anno prima vanno abbinato? Hanno abbinato a noi il bambino. E perché hanno aspettato un anno a darvelo, visto che era bravissimo, deciso? Bravissimo, questo era il problema. Cioè, un anno di vita felice per questo bambino in più, probabilmente. Esattamente, perché l'abbiamo scoperto, e guardi, senza andare a disturbare Calvino, ma mi rendo conto che, insomma, credo alla predestinazione, perché credo ancora oggi, dopo 7 anni, che il motivo per cui mio figlio oggi è qui, ed è esattamente quel bambino, è stato determinato dal caso. Io chiedevo in questo anno motivi per cui io e mio marito non partivamo mai. Altre coppie dopo 2 o 3 mesi partivano. Ma perché? Me lo faccio capire? Non lo so. Lo faccio capire. L'abbiamo scoperto, poi se interessa le dirò come, c'erano dei problemi nella documentazione in Vietnam. E non ci veniva spiegato questo fatto, cioè nessuno ci diceva che quel bambino in realtà aveva una madre esistente che non era registrata all'anagrafe. Pertanto il Tribunale dei Minori, il Tribunale in Vietnam, a Ho Chi Minh City, chiaramente non poteva validare l'accettazione dell'adozione, perché questa donna non esisteva. E quindi ha avuto un problema. Comunque dopo un anno finalmente, ne ha due però vedo dalla scheda. Ne ho due, perché come ho fatto a risolvere la questione? Abbiamo incontrato un giorno a Milano un amico, il quale aveva un amico medico in Vietnam che operava. Vabbè, avete seguito, sì, adesso non entriamo, sennò parliamo solo del suo caso. Abbiamo telefonato e siamo riusciti a capire. Vabbè, ha trovato l'aggancio giusto e l'ha portato, e poi si è preso il secondo. E l'abbiamo portato. Quando siamo arrivati abbiamo scoperto che c'erano dei fratelli. E quindi se ne è preso anche uno. Più grandi. E quindi l'anno successivo, e qui ancora grazie al Tribunale dei Minori, un giudice veramente capace, ha ritenuto valido ancora lo stesso decreto adottivo, E quindi un anno dopo il rientro in Italia con il primo bambino siamo andati a prendere il fratello che aveva allora 10 anni. Quindi ha concluso, diciamo, ha concluso lì, adesso è felice e contenta con i suoi figli adottati, senza lutti da elaborare. Esatto. E ha risolto, esatto. Finito tutto. Ecco, quindi mi sembra che la fase più problematica è stata la fase per lei, diciamo, precedente all'adozione. Una volta fatta l'adozione affronta la realtà come l'affronta qualsiasi altro genitore. Stiamo invece Lucia. Sì. Lucia, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dunque, io forse vorrei fare un intervento positivo in questo senso. Mi sembra giusto che gli assistenti sociali facciano un certo tipo di analisi, perché guardiamoci intorno, quanti problemi ci sono oggi nelle famiglie, tra virgolette, normali, no? Ma c'erano anche ieri, ci sono sempre stati. Infatti, oggi forse siamo tutti un po' più stressati, il lavoro e tutto quanto. Io e mio marito abbiamo affrontato un percorso normalissimo con gli assistenti sociali nel Tribunale dei Minori di Firenze, ci hanno fatto un'indagine, logicamente, come è normale, mi sembra che sì, anche perché la vita si stravolge completamente nell'arco di una settimana, quando si iniziano a fare questi viaggi, cioè cambiano tutte le abitudini, poi specialmente magari una persona in età un pochino più avanzata come la mia. Quanti anni ha lei? Io ho 53 anni. E l'ha adottato quindi, quanto tempo fa? 3 anni fa. Ah, quindi ha 50 anni, e quanti anni aveva questo ragazzo? Era già grandino, aveva 7 anni, ma è un bambino meraviglioso. Purtroppo però devo dire, noi abbiamo adottato in Russia e ci siamo trovati benissimo con l'ente e con il corrispondente in Russia. Però abbiamo avuto un'esperienza negativa con la Polonia, per questo diciamo il tempo è passato. Ah, quindi ne ha presi più di uno? No, ne ho uno solo, l'esperienza è stata negativa perché poi questa ragazzina dalla Polonia non è voluta venire, addirittura si è rifiutata lei. Quando noi siamo andati là in Polonia, c'è stato questo tipo di approccio di questa ragazzina di 13 anni che nonostante fosse nell'elenco dei bambini adottabile a livello internazionale, per la Polonia, per l'ente, il centro adozioni di Varsavia era adottabile, non era assolutamente preparata, aveva già tutto un suo giro di amicizie, tutta una vita impostata. Cioè non era per niente d'accordo di essere adottata, a 13 anni, d'altronde oggi ha già una sua maturità una ragazza, quindi ha detto ma io non li voglio questi, quindi me ne sto non qua. Si può, e quindi ci ma vuole è lecito un però, attimo. Da parte della bambina è lecito. A 13 anni una ragazza. Le dirò che col senno di poi forse lei è stata più intelligente di noi, ho pensato io. No? Ma magari stava bene dove stava, preferiva stare. E perché vengono inseriti nelle liste dei bambini adottabili, dei ragazzi adottabili? Cioè, domani, no? Lei perché, che risposta si è data? Mi do una risposta per fare numero. Forse perché cercano comunque delle strade per arrivare a vedere che sia qui in Italia vengono fatte delle adozioni. Ma forse ce l'hanno messa 4-5 anni prima, che era più piccola, che non aveva possibilità di fare altre scelte. La sua situazione familiare era veramente drammatica di questa ragazzina. Ma tante volte è meglio una situazione familiare drammatica però della propria famiglia che andare in una famiglia che non conosco. Io su questo mi terrei leggero, nel senso perché ormai non sono più bambini. Una ragazza a 13 anni è una donna a tutti gli effetti, è matura e farà la sua scelta. Vedrà davanti lei magari una vita più difficile, ma aveva le sue amicizie, aveva già scelto le persone. Non credo che sia giusto pensare per lei la soluzione migliore sia riempire le lacune affettive di persone che lecitamente pensano di potersi occupare di lei. Si fermi un attimo, sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Racconti la sua storia. Io sono padre adottivo di 2 bellissimi bambini, abbiamo adottato la nostra prima figlia nel 2006, è una bambina moldava, e poi abbiamo bissato il nostro progetto nel gennaio 2011 con un bambino cinese. Sei andato in Cina a prenderlo anche il bambino? Esattamente, tutti assieme, compresa la figlia. Comunque si fanno bei viaggi quando si adottano bambini internazionali, diciamo internazionalmente adottati. Assolutamente sì, sono viaggi impegnativi. Quanto tempo siete stati in Cina? Siamo stati in Cina circa poco meno di un mese all'incirca. E, peraltro abbiamo adottato nostro figlio nella provincia più meridionale della Cina, che è lo Guangxi, quello che confina col Vietnam, per intenderci. Per cui... E come si passa questo mese di, diciamo, di assimilazione, ambientamento, come si chiama, non so... Beh, ok, si passa tra qualche pratica amministrativa, nel caso dell'adozione in Cina l'adozione non è per via legale, ma è un atto amministrativo per cui ci si incontra con il bambino, c'è un momento di assestamento, nel giro di poco le autorità cinesi sono molto efficienti, diciamo, si disbrigano un po' di pratiche. E dopo c'è tutte le pratiche che servono per il rientro in Italia, per cui si va dai visti alle autorizzazioni della Commissione per l'adozione internazionale che deve giungere affinché tutti e quattro possiamo rientrare in Italia con il bambino cinese, e quindi c'è un iter da seguire, e a questo va aggiunto anche il fatto che i principi, diciamo, che soprassiedono l'adozione internazionale non sono quelli del blitz, per cui non vado in un paese e immediatamente fuggo con mio figlio. Un buon principio sarebbe quello di capire dove mio figlio è nato, cosa ha vissuto, qual è, per quanto possibile, capire la cultura del suo posto. E in questo i cinesi, per esempio, hanno investito inizialmente, quando alcuni anni fa iniziarono le adozioni italiane in Cina, che per l'appunto le coppie una residenza temporanea in Cina per comprendere, per avvicinarsi per quanto possibile al loro mondo, insomma. Senta, lei ci aveva telefonato, ci aveva scritto Andrea che c'era qualche precisazione da fare rispetto a quello che è stato detto nell'altra puntata delle integrazioni, riguardo a quale degli argomenti che abbiamo toccato, sfiorato, a volte approfondito? No, c'è stato un punto dibattuto che forse è stato l'ultimo delle ultime battute della puntata precedente, che riguardava i rapporti con i referenti, i famosi intermediari finali. Esatto. Gli ultimi ascoltatori della scorsa puntata stavano testimoniando delle difficoltà, dei travagli avuti con queste persone, il cui comportamento, ahimè, spesso non è corretto, non è assolutamente corretto, si arriva fino alla truffa da questo punto di vista. E anche casi recenti hanno testimoniato truffe a danni di coppie partite con tutte le ottime intenzioni, e poi truffati in loco da persone senza scrupoli che ti spillano soldi. Però, diciamo, il meccanismo funziona, è controllato e si segue l'iter secondo canali ufficiali e verificabili fino a un certo punto. Come a un certo punto si rimane soli con un intermediario che potrebbe anche truffare? Chi ne risponde? No, in realtà non si dovrebbe rimanere soli, nel senso che per la legge italiana che accoglie la Convenzione dell'AIA, gli enti soprassiedono a questo percorso, a questo iter, e quindi sono loro che si fanno garanti nei confronti delle coppie della corretta esecuzione di tutto questo processo dell'adozione, fino al rientro e addirittura al post-adozione. Sono gli enti che quindi localmente operano con del personale, e talvolta è personale, come dire, terzo, e sono questi per l'appunto intermediari referenti, e quindi in questo c'è una responsabilità degli enti, perché gli enti conoscono chi sono queste controparti, sanno, secondo me, anche dei comportamenti non corretti di queste controparti. Ma si fermi un attimo, non resti lì, Andrea, adesso mi interessa. Prego. Questo è il punto che era più controverso nell'altra missione che abbiamo lasciato sospeso. Paola Cristani, presidente CIAI, buongiorno. Paola Cristani è la presidente del CIAI, che è il Centro Italiano Aiuti per l'Infanzia, è una NG, un'organizzazione non governativa, apartitica, non confessionale. Dal 68 si batte per promuovere il riconoscimento del bambino come persona, difendere ovunque i diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla famiglia, all'educazione, al gioco e all'innocenza. Ho letto esattamente quella che è, diciamo, l'intestazione della sua associazione. Ecco, rispetto a quello che dice il nostro ascoltatore, non è stato il solo, non è stato il primo, abbiamo avuto tante testimonianze. Qual è il punto di caduta? Perché al di là delle polemiche o dei punti di vista personali sugli assistenti sociali, colloqui preventivi, ognuno la vede come vuole, io ritengo sia giusto ci sia un iter di verifica della famiglia, poi non, senza entrare nello specifico, chi lo farà meglio, chi lo farà più accuratamente, chi lo farà in maniera forse più vessatoria, almeno così la sentono i genitori, ma è giusto che ci sia. Però il punto che mi interessa è invece il punto d'arrivo, quando si arriva in un paese straniero, a volte un paese difficile da decodificare, da sondare, il signore poco fa è stato in Cina, si entra in contatto con un intermediario che in molti casi, mi dicono, in certe situazioni, in certe aree che mi hanno specificato, le aree dell'est, i paesi dell'est, dell'ex Unione Sovietica e via dicendo, accade qualcosa che non dovrebbe accadere, vengono chiesti soldi, si interrompe la catena di tutela della famiglia. Cosa accade? Perché accade? Le risulta che accada? Allora, intanto premetto che non deve accadere. Noi come enti abbiamo il dovere di garantire che questo non accada. Abbiamo anche responsabilità in questo senso, di cui dobbiamo rispondere alla Commissione Adozione Italiana, perché noi dobbiamo lavorare in modo corretto. Quindi voi siete responsabili fino alla consegna, diciamo, della persona da adottare? Anche oltre, perché noi siamo responsabili anche di garantire al paese di origine dei rapporti periodici per alcuni anni dopo l'inserimento del bambino. Quindi non bambina. Può accadere che esistano persone non controllate che prendono contatto con la famiglia? Siamo noi che dobbiamo vigilare perché questo non accada. Noi dobbiamo avere nei paesi in cui lavoriamo dei nostri referenti, vuol dire delle persone che lavorano per conto nostro e che portano avanti nei paesi le pratiche di adozione internazionale. Questo è completamente diverso da avere delle persone che diciamo mediano rispetto all'adozione. Il nostro referente è una persona che lavora per noi e che deve garantire il rispetto di tutte le procedure. Allora, per capire bene, Andrea, velocemente poi mandiamo le informazioni della borsa, poi riprendiamo. Qual è secondo lei il punto in cui sfugge di mano qualcosa? Se ha avuto lei questa esperienza o ha avuto notizie di questo magheggio per cui a un certo punto c'è gente che ti chiede soldi cash. Mi hanno detto l'altra puntata, dobbiamo andare con le tasche piene di soldi perché te li cominciano a chiedere tutti. Sì, personalmente non ho avuto questo tipo di esperienza, quindi mi ritengo anche fortunato da questo punto di vista. In realtà non penso che sia soltanto fortuna. Il punto di rottura sta nella reale interpretazione dell'adozione internazionale, che deve essere un atto residuale, cioè gli enti dovrebbero in realtà operare nel territorio come extrema ratio con l'adozione internazionale, ma dovrebbero operare socialmente con progetti di cooperazione, quindi conoscere la realtà, stare nel territorio addirittura con proprie persone. Questo comporta conoscere e quindi accompagnare anche la coppia localmente e non affidarla semplicemente a una terza persona, perché se l'adozione internazionale diventa la missione principale di un ente, è evidente che il confine è molto labile tra questa e l'intermediazione. Mi sembra chiaro, fermiamoci un istante. Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo parlando di adozioni internazionali. Mi scrive un ascoltatore, dice: perché non dici mai bambino, ma persona da adottare l'adottato? Dico persona perché molte volte non sono proprio bambini, sono anche ragazzi in età abbastanza avanzata, 13 anni, 14 anni, come appunto mi sembra che il termine persona comprenda tutto al suo interno, strane queste osservazioni degli ascoltatori. Stiamo ricevendo molte telefonate e il punto che dobbiamo sviscerare questa mattina è quello che già avevamo accennato e sfiorato nell'altra puntata, questa volta diventa centrale. Fino a che punto esiste una possibilità di controllare tutta la catena dell'adozione internazionale, perché chi deve poi adottare non si trovi, come mi dicono molti, in condizioni di incrociare persone che non fanno parte, diciamo, della catena controllata ufficiale dei rapporti che ci sono appunto fra famiglia adottata che adotta e famiglia che diciamo è associazione che dà il ragazzo o la persona in adozione. Ne stavamo parlando con Paola Crestani, che è presidente del CIAI, che è appunto il Centro Italiano per Aiuti per l'Infanzia, che è un ONG che si occupa appunto di questo. Lei ha sentito cosa ha detto il nostro ascoltatore poco fa? Ha sentito? D'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore, cioè per noi enti è possibile garantire delle procedure corrette, però bisogna lavorare in un certo modo. Una cosa fondamentale, come giustamente diceva l'ascoltatore, è avere, essere radicati sul territorio, avere una sede sul territorio, avere personale che lavora per noi, non abbandonare mai le famiglie quando si recano nel paese a accogliere il loro bambino. Perché in questi paesi possono sempre capitare degli episodi spiacevoli di richieste indebite, ma questi episodi non devono mai arrivare alla famiglia, ci deve essere sempre il nostro personale che filtra queste cose e difende le famiglie. Bisogna avere del personale che conosce il paese, che lavora secondo regole che noi dettiamo e possibilmente anche che sia personale stipendiato, cioè personale che non viene pagato a cottimo, a adozione, perché questo può provocare anche dei fenomeni di incentivazione dell'abbandono, cioè cercare dei bambini perché vengano segnalati per l'adozione per incrementare i propri guadagni. Questo è un modo per garantire. Poi ovviamente bisogna creare anche un legame con la famiglia. Le famiglie che si rivolgono a noi fanno un iter lungo con noi e poi proseguono anche dopo. Se disgraziatamente nei paesi ci fosse qualche episodio non giusto, non corretto, la famiglia si rivolgerebbe immediatamente a noi e ce ne metterebbe al corrente. Per cui potremmo intervenire a risolvere questa situazione. Ecco, ripeto, si può, ma bisogna mettere in atto tante cautele, tante procedure e vigilare attentamente su questo. Andrea, cosa ha da aggiungere rispetto a quello che ha detto appunto Paola Cristani? Io aggiungerei anche questo: se è vero che in questo momento stiamo parlando degli enti, il CEI è tra i maggiori enti in Italia, è tra i più seri che operano, c'è in tutto questo, per la mia opinione, anche una parte di responsabilità delle coppie. L'iter dell'adozione internazionale è particolarmente faticoso, lungo, complesso, le testimonianze che lei ha avuto rafforzano questo concetto, e c'è da parte delle coppie una grande voglia di bypassare e di arrivare al proprio agognato figlio saltando a alcune parti. Per cui è facile pensare di poter rapidamente arrivare alla propria conclusione della propria storia complessa e assumendosi dei rischi, e quindi che poi si rischiano di pagare a carissimo prezzo, non soltanto dal punto di vista economico. Il percorso è duplice, sia da parte della coppia che da parte degli enti che devono svolgere questa attività di accompagnamento delle coppie in questo percorso. Quindi le coppie stesse devono essere a loro volta consapevoli di quello che stanno facendo e del percorso che stanno facendo. Vorrei introdurre in questo punto nella nostra discussione una collega che anche di questo argomento si è occupata. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno a te, gli ascoltatori. Allora, Valentina Furlanetto è la collega di Radio 24 che conduce Indovina chi viene a cena, che è uscito appunto da poco in libreria il suo libro L'industria alla carità, da storie e testimonianze inedite, Il volto nascosto alla beneficenza, edizioni Care Lettere, di cui abbiamo già parlato in precedenti trasmissioni, in cui hai un capitolo proprio dedicato anche a questa vicenda delle adozioni internazionali. Tu che idea ti sei fatta su questo? Il percorso è sempre così rettilineo, così controllabile, o esistono delle zone d'ombra in cui può entrare chiunque? Sì, ho sentito a tratti la trasmissione e io mi sono occupata proprio di questo, delle opacità e, come dicevi tu, della presenza o meno di intermediari, come dicevano alcuni genitori. Ho sentito anche il presidente del CHAI, che è un'associazione che si pone molto questi problemi. In effetti io sono incappata in alcune storie, una trentina di famiglie che hanno adottato in Etiopia alcuni anni fa. L'Etiopia è un paese dal quale nel 2011 sono arrivati in Italia 296 bambini, quindi moltissimi. E l'Etiopia non rientra nel sistema AIA, e non so se sapete che cos'è, se ne avete parlato. È un bollino praticamente, questo dell'AIA, che si dà ai paesi che ratificano una convenzione che prevede una trasparenza molto forte nelle adozioni. Questo non mette a riparo questi paesi da scandali, però insomma. Poi c'è un attestato di sicurezza. Chi ne è fuori esattamente? Esatto. Quali sono i paesi che ne stanno fuori? Guarda, tanti, perché solo 88 paesi nel mondo hanno aderito alla convenzione. Fra questi non c'è ad esempio l'Etiopia, no? Ma non ce ne sono anche altri con le quali l'Italia continua ad adottare, come Vietnam, Thailandia, Ucraina. Ci sono però degli accordi bilaterali con alcuni di questi paesi. Con l'Etiopia ad esempio no, la situazione è abbastanza controversa. Fatto sta che insomma quasi 300 bambini all'anno arrivano dall'Etiopia in Italia. Il secondo paese è l'Italia, che adotta in Etiopia dopo gli Stati Uniti. per numero di bambini adottati. Allora, cosa è accaduto? Io, come fanno i giornalisti, no, in questi casi, si intrufolano un po'. Io in quel caso mi ero intrufolata in un forum per genitori adottivi per cercare di capire un po' di più su questa adozione internazionale. Lo ricordo che i costi sono molto alti, forse qualche genitore l'ha detto, per adottare a livello internazionale, mentre per adottare in Italia sono bassissimi. Girano io ho calcolato 3.000 adozioni l'anno, una media di 15.000 euro a bambino adottato, fanno 45 milioni annui, insomma un bel po', no? Allora io mi sono intrufolata in questi forum per cercare di capire qualcosa di più e mi sono incappata in alcune storie. Più le conoscevo, più mi presentavano altre famiglie, tutte hanno adottato in Etiopia, tutte hanno più o meno la stessa storia, portano a casa i bambini che sono grandicelli, 7, 8, 9 anni, imparano l'italiano e poi vanno a dire alla mamma o al papà: ma come, tu mi hai comprato? Perché io ho visto un passaggio di soldi, perché è arrivato il pulmino nel villaggio, perché la nonna, la mamma, la zia mi ha dato in cambio di soldi, e questi genitori, ovviamente, che non avevano idea di cosa fosse accaduto, hanno iniziato a bussare alla porta di nuovo dell'ente e della CAI, la Commissione Adozione Internazionale, e dire: scusate, ma cosa sta succedendo? L'abbiamo comprato o l'abbiamo adottato? Ecco, questo è... Esatto, perché noi non sappiamo niente, siamo ovviamente in buona fede. A tutti è stato risposto. Le storie sono ricorrenti e molto simili, per cui... Ecco, tu l'hai registrato soltanto riguardo all'Etiopia? Perché molte telefonate arrivano invece da paesi dell'est. Sì, dice... anche il Kirghizistan ha storie simili. C'era un articolo sulla Stampa di dicembre, quindi io avevo già consegnato il libro, altrimenti mi sarei messa in moto nei forum del Kirghizistan, che parlava di due genitori, nome e cognome, che sono stati vittime di una truffa simile, anche qui un intermediario che ha fatto da intermediario fra la famiglia e l'orfanatrofio, i genitori all'oscuro di tutto. Addirittura in quel caso i bambini poi sono spariti, una volta che i genitori sono arrivati, li hanno visti, belli, li hanno conosciuti, poi sparivano. Ma nemmeno ci poi sono sicuramente alla fine... altri paesi. Ma fermiamoci un attimo, Valentina, diamo il traffico, tu puoi rimanere con noi qualche minuto anche dopo? Sì, certo. Allora continuiamo certo. Anche dopo, così sentiamo anche dalla rappresentante dell'associazione quali sono le zone d'ombra. Melog, la realtà condivisa. (800) 24 0024, velocemente, stiamo parlando di adozioni internazionali, stiamo capendo quali sono i punti non proprio chiari nel percorso di adozione, non in tutti i paesi, non con tutte le associazioni, non in tutti i casi, ma esistono delle circostanze che forse è bene chiarire. Paolo Crestani, presidente del CEAI, ricordo, Centro Italiano Aiuti per l'Infanzia, rispetto a ciò che ha detto Valentina Furlanetto, che ha scritto nel suo libro, cosa ha da aggiungere o da specificare? Ho da aggiungere che in effetti è possibile che nei paesi ci siano questi fenomeni. Anche a noi è capitato in questi 45 anni di attività di imbatterci in personaggi che si sono proposti come degli intermediari per procurarci un certo numero di segnalazioni di bambini. Questa è una cosa che bisogna rifiutare. Cioè il subappalto dell'adozione internazionale, ecco, una cosa del genere. Esatto, dei mediatori che o direttamente o tramite magari direttori di istituto, eccetera, si rendono disponibili a procurare un certo numero di bambini. Questa è una cosa assolutamente da rifiutare, perché, come giustamente ha detto Valentina Furlanetto nel suo libro, noi anche come genitori, dobbiamo essere tranquilli e sicuri di poter sempre dire a nostro figlio che non è vero che l'abbiamo comprato, perché cominciare un rapporto anche genitori-figlio in questo modo può essere molto pericoloso, può portare a dei veri e propri fallimenti dell'adozione. Quindi, ma evidentemente a certe latitudini la vox populi è questa: a un certo punto arriva il signore col pulmino, come fosse l'arrotino, dice che c'è un figlio da adottare e apre il mercato, la vedono così. Però, come diceva la Furlanetto, appunto, però il problema è che con certi paesi non c'è il bollino di garanzia, non c'è una generale salvaguardia del fatto che tutto avvenga alla luce del sole, secondo le norme, secondo le regole. Allora, per quanto riguarda noi enti, abbiamo una responsabilità nei confronti delle famiglie che si rivolgono a noi, siamo noi a dover fornire questo bollino di garanzia. A livello italiano vorrei dire che abbiamo anche una commissione adozioni che avrebbe il dovere di vigilare che gli enti che lavorano in quel paese si comportino in modo corretto. Purtroppo non sempre in questo momento la commissione è in grado di fare questo, perché specialmente all'estero non ha grande possibilità di agire proprio sul territorio e quindi deve molto demandare alla nostra responsabilità. Però ci sarebbe anche questo compito. Vorrei anche aggiungere, parlando dei costi dell'adozione, che agire in modo corretto è molto più costoso che agire in modo scorretto, perché pagare del personale a stipendio, indipendentemente dal numero di adozioni che poi vengono fatte, che di solito, se ci si comporta in modo corretto, sono poche, perché se non si accetta di lubrificare i meccanismi, diciamo, le segnalazioni possono essere di gran lunga inferiori. Ecco, tutto questo costa e non sempre si ha. Quindi lei mi dice, scusi Paola Cristiani, sì, che in certi paesi, se non ci fossero, diciamo, l'attività illecita, l'attività parallela, sarebbe molto difficile adottare per le vie normali e regolari. Le dico che a noi vengono spesso fatte pressioni di questo tipo, di, diciamo, favorire le segnalazioni di bambini, garantendo degli esborsi di denaro. E se questo non viene fatto, perché noi mai abbiamo fatto questo, poi succede che insomma le segnalazioni sono minori di quello che ci potremmo aspettare. Ecco. Valentina Furlanetto, ricordo sì, che di questo argomento l'ha trattato nel suo libro Il volto nascosto della beneficenza, edizione Chiare Lettere, l'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, Il volto nascosto della beneficenza, il titolo esatto. Sì, come diceva la Presidente, che lo dice in maniera molto soft, anche la Commissione Adozioni Internazionali, io lo dico in maniera più pesante, dovrebbe vigilare un po' di più, nel senso che noi abbiamo delle responsabilità anche come Paese, quindi anche il Governo, il Ministero dovrebbero essere più presenti, oltre al fatto che gli enti in Italia sono 65, alcuni sono presenti in questi paesi da moltissimi anni e hanno delle persone che vanno nei villaggi a vedere, perché non sempre nei villaggi le persone capiscono cosa vuol dire adozione. Alcuni, tipo Askele Selato, una donna etiope, sta cercando i suoi figli, ha firmato un foglio dove c'era scritto adozione, lei dice: io non capivo cosa volesse dire, pensavo che andassero a studiare, ha venduto la terra per andare ad Addis Abeba a cercare i suoi figli perché pensava di poterli andare a trovare, di averli messi in istituto perché mangiassero e studiassero. Allora, quindi è così complessa, addirittura nemmeno sanno che danno i figli in adozione. Alcuni non capiscono cosa vuol dire adozione, e questo è comprensibile in certi contesti, perché magari nel paese non esiste questa pratica dell'adozione, e pensano, e gli intermediari gli dicono che gli daranno da mangiare i bambini e li faranno studiare a persone povere con molti figli. Questo può essere una soluzione per i figli temporanea. Loro pensano di andarli a trovare, magari li vanno a trovare, non li trovano più. Questa donna dice: l'ho trovato l'orfanotrofio, ma i responsabili non volevano ridarmelo e mi hanno chiesto dei soldi indietro per vederlo. Allora, io mi chiedo come mai, e spero che ci sarà un'indagine su queste storie, che come ti dicevo, io le ho incontrate intrufolandomi in rete, queste mamme poi gentilissime, dopo che mi sono palesata chiaramente come giornalista, mi hanno raccontato e vogliono che queste storie vengano alla luce, chiaramente, perché come mi diceva una mamma, noi non vogliamo un figlio a tutti i costi, perché nessuno vuole un figlio a tutti i costi, nessuno vorrebbe sentirsi dire da un bambino che tu pensi di aver strappato a queste condizioni tu mi hai comprato, quasi ricettarlo, quasi un atto di ricettazione, perché sì, in buona fede ovviamente, certo, tu sei convinto di prendere un bambino orfano e ti trovi col bambino che ti dice: io la mamma ce l'ho, oppure ho la nonna, perché poi siamo convinti che il mondo sia pieno di bambini orfani, 163 milioni secondo l'UNICEF, poi se si legge bene il rapporto però si scopre che magari hanno il papà o hanno la mamma o hanno i nonni o hanno un contesto familiare allargato. Quindi è un mito fondamentale dell'Occidente che ci fa sentire più buoni nel caso in cui adottiamo. Bisogna stare attenti, perché rischia di diventare, attenzione, ovviamente bisogna fare dei distinguo, no? Però un colonialismo: noi abbiamo i soldi, non abbiamo i figli, loro hanno i figli e ce li compriamo. Paola Cristiani, mi sembra che il problema ormai è venuto in superficie, l'abbiamo toccato, certo. È un problema doloroso, non vogliamo scoraggiare, anzi è una pratica che senz'altro è gratificante per chi la mette in atto, ma dà delle soluzioni di vita ottime nella maggior parte dei casi per chi ne è, diciamo, il soggetto. Però è giusto che di questo si parli, si capisca quali sono i punti negativi, anche perché la coscienza di, come dice Valentina Furlanetto, di noi che abbiamo potere d'acquisto anche di qualcosa molto ineffabile come avere un figlio, bisogna stare attenti che poi non favoriamo questo meccanismo di ricettazione dei bambini, che è bruttissimo. È giusto che se ne parli, è doveroso che se ne parli, sono 40 anni che noi ne parliamo e che denunciamo questa situazione, perché in realtà c'è comunque una pressione da parte delle famiglie, da parte del mondo occidentale verso questi paesi per avere segnalazioni di bambini. Non sono sempre così sicura che le famiglie non siano disposte a fare qualunque cosa per avere un figlio, purtroppo a volte sono disposti a fare qualunque cosa. Sta a noi vigilare rispetto a questo e quindi richiamo ancora una volta alla responsabilità di noi enti, perché se si vuole si possono fare le cose in modo corretto. E poi adesso nessuno può dire che non sapeva. Grazie Valentina Furlanetto, grazie Paola Crestani, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. A domani. Melog, la realtà condivisa.